Miti che cambiano per un mondo che cambia. Anche in questo caso non si vuole affatto affermare che non circolasse un'energia malefica o demoniaca nelle società arcaiche orientate più sulla partnership che sul dominio. Gli esseri umani sono capaci di violenza e crudeltà, il male, come di gentilezza e premure, il bene. Per la verità, la natura è creativa e distruttiva insieme e questi processi influenzano tutta la nostra esistenza. Ma la polarizzazione in bene assoluto e male assoluto che troviamo nelle società orientate sulla dominanza, primitive o socialmente e tecnologicamente avanzate che siano, non è un tema che compare nell'iconografia di società più antiche, più gilaniche, in cui non si rileva una costante opposizione tra divinità o eroi buoni e una profusione di mostri o demoni cattivi. Per contro, nel babilonese Enuma Elish, poema della creazione, che risale appena al 1100 a.C. circa, la creazione medesima si configura come un atto di violenza. La dea Tiamat viene uccisa dal dio Marduk e dal suo cadavere smembrato prende origine il mondo e un nuovo ordine del mondo. Secondo questo mito, non soltanto l'inizio del mondo, ma anche le origini umane nascono dalla violenza. Infatti, dopo aver ucciso la dea madre per creare il mondo, Marduk uccide la sua inconsapevole bella sposa, Kingu, e col suo sangue crea gli esseri umani per farne i servitori degli dèi. Mi interessa sottolineare che esiste un motivo per questi miti di dipingere tanta violenza e di giustificarla demonizzando le altre popolazioni e le altre divinità. La ragione è che per mantenersi le rigide società della dominanza hanno bisogno dell'idealizzazione e dell'istituzionalizzazione della crudeltà, della violenza e dell'insensibilità. In altri termini, del male. In quale altro modo si potrebbero infatti imporre rapporti sociali e sessuali basati su rigide gerarchie di predominio? E siccome il sistema del dominante assicura anche la responsabilità di tutto il male perpetrato, per mantenere questo modo di strutturare le relazioni umane e non venga attribuita a chi di dovere, essa viene proiettata altrove, nei miti e nella realtà. Una proiezione che tuttora possiamo osservare consiste nel trovare un capro espiatorio, nell'incolpare e troppo spesso uccidere gruppi socialmente spodestati per problemi e mali di cui non sono responsabili. Infatti, quando erano perseguitati dai romani, i cristiani erano accusati di sacrificare esseri umani e di mangiarne poi le carni, forse perché l'Eucaristia è un rito in cui simbolicamente si beve il sangue e si mangia il corpo di Cristo. Accuse di offrire sacrifici umani furono dirette anche contro le donne torturate e condannate al rogo come streghe dall'Inquisizione. E la stessa imputazione fu rivolta ancora nel XX secolo. Per giustificare i pogrom zaristi contro gli ebrei russi, accusati di uccidere e mangiare bambini cristiani. Un'altra proiezione tipica è l'invenzione di demoni o diavoli, che in molti miti equivalgono a versioni distorte delle divinità dei popoli conquistati o perseguitati. Un'altra ancora è la proiezione del male sugli dèi medesimi, cui si accompagna il tentativo, mediante il sacrificio rituale e in tutte queste antiche società, mediante il sacrificio cruento, di placare dei irati e vendicativi e i relativi rappresentanti in terra. Desidero ancora una volta sottolineare che le popolazioni più orientate alla partnership di Creta, all'inizio del Neolitico e poi in epoca minoica, si preoccupavano del male, della violenza e della morte e ne erano impaurite. Nel Neolitico la morte era spesso associata con la dea degli uccelli. Forse perché a Catalhöke e in altri insediamenti la scarnificazione dei cadaveri prima della sepoltura delle ossa pare la eseguissero gli avvoltoi, simboli della dea che riprende il defunto nel proprio grembo. E nella cultura minoica, come nelle culture alcaiche, la dea dei serpenti simboleggia pure il regno Ctonio o dell'oltretomba e a quanto pare gli antichi associavano a un ritorno al grembo della dea. Tuttavia, una cosa è riconoscere, come avveniva presso questi popoli, la natura ciclica della vita e della morte e considerare la dea come colei che dà la vita e se la riprende affinché possa rinascere, mentre altro è caratterizzare la dea degli uccelli, la dea dei serpenti e altre divinità femminili come demoni malvagi e assetati di sangue che esigono sacrifici umani, cosa che non troviamo nell'iconografia neolitica o minoica. Come abbiamo visto, nel Paleolitico e nel Neolitico il matrimonio sacro era percepito come il catalizzatore che a primavera attiva una nuova vita. Non sembra aver avuto niente a che fare con il problema di placare mostri o demoni, né con la violenza o la legittimazione dell'autorità dei re. Anche nel più tardo matrimonio sacro sumero, di cui leggiamo negli inni di Nanna, viene ancora venerata la sacralità della sessualità femminile, così come il suo potere creativo. L'amore è ancora l'incontro appassionato di un uomo e una donna, con le donne che prendono apertamente l'iniziativa nell'amplesso sessuale e ne traggono piacere. E sebbene a questo punto il matrimonio sacro sia già uno strumento con il quale gli uomini legittimano la loro autorità di sovrani, precisi segni indicano che il potere del re non è ancora assoluto. Sebbene Nanna ceda a Dumuzi i suoi poteri affinché governi in sua vece, quando egli dimentica che il suo potere deriva da lei, viene deposto e condannato a trascorrere metà dell'anno nell'oltretomba, da cui lui pure torna ogni anno, simbolo ancora dell'antico tema della rigenerazione ciclica della vita. Ma in un altro mito mesopotamico, sul leggendario eroe Gilgamesh, già si dispiega una storia assai diversa. Quando la dea Ishtar, che in Babilonia succede alla sumera Inanna, gli propone di sposarlo, egli la rifiuta con insolenza, accusandola di mostrarsi infedele ai suoi amanti precedenti e di far loro torto. Poi, con l'aiuto dell'amico Enkidu, un selvaggio che vive sulle colline, uccide il toro divino di Ishtar e le getta in faccia la coscia del medesimo. In talune traduzioni si tratta dei genitali. Dunque, oltre al passaggio dalla celebrazione del potere del sesso e del piacere all'idealizzazione del potere di portare dolore e morte, questo mito ci dice che quantomeno a un certo punto alcuni re non ritennero più il matrimonio sacro con la dea necessario a legittimarne l'autorità. Tuttavia, come scrive Meyer, il rifiuto di Ishtar non è l'unico episodio da esaminare in Gilgamesh. Per esempio, alla fine della storia, Ishtar viene di nuovo presentata in una luce favorevole e si dà molto rilievo al fatto che Gilgamesh torna a venerarla. Ma la traccia più importante di miti e sistemi di credenze più antichi nel poema epico di Gilgamesh è l'episodio citato nell'introduzione a questo libro, quello in cui il selvaggio Enkidu si umanizza grazie all'amplesso con una sacerdotessa di Ishtar. In altre parole, anche in questo poema troviamo ancora tracce di un sistema di credenze in cui il sesso e il piacere sono forze umanizzanti. La fusione dei miti della dominanza e della partnership. La fusione di elementi pre- e tardoellenici negli antichi miti è evidente anche nei cosiddetti misteri greci, che, come cercherò in seguito di dimostrare, probabilmente scaturirono da precedenti miti religiosi che scorrevano sotterranei. Come scrive la classicista Jane Harrison in Prolegomena to the Study of Greek Religion, sebbene la sua importanza si affievolisca con il passare del tempo, il matrimonio sacro rientrò probabilmente in qualche forma in tutti i tre misteri più famosi: eleusini, dionisiaci e orfici. I misteri eleusini, celebrati da migliaia di pellegrini dall'800 a.C. circa fino al 150 d.C., quando il tempio di Eleusi fu ampliato dai Romani, trattano gli stessi temi dei miti preistorici: nascita, sesso, morte e rigenerazione. Come scrive il filosofo Mara Keller, si occupavano di tre dimensioni interconnesse della vita: uno, la fertilità e la nascita; due, la sessualità e il matrimonio; e tre, la morte e la rinascita. Ma come indica la ricerca di Keller, le mutevoli versioni del mito di Eleusi riflettono anche il conflitto di culture tra le più antiche popolazioni agricole che veneravano la dea e bellicosi invasori, e ogni nuova versione incorpora un maggiore numero di elementi legati al modello della dominanza. Il mito fondamentale dei misteri d'Eleusi ruota attorno a Demetra, la dea greca della terra e madre dell'orzo e del grano, e alla sua divina figlia, Persefone o Core, la quale, secondo il mito greco, viene rapita e trasportata nell'Averno per diventare la riluttante sposa di Ade, che ne è il sovrano. Nel suo profondo dolore per la perdita di Persefone, Demetra, colei che offre i doni della terra, non fa più crescere nulla, tanto che i campi prima fertili inaridiscono e muoiono. Per allontanare la catastrofe, Zeus ordina che Persefone venga lasciata libera, ma prima che si allontani, Ade offre a Persefone una dolce melagrana rossa. Avendo mangiato il frutto, simbolo della sessualità e della fertilità, Persefone dovrà tornare nel mondo delle ombre per un terzo dell'anno, il che spiega la morte e la rinascita ogni anno della vegetazione. Il mito greco di Demetra e Persefone contiene alcuni degli elementi presenti negli inni di Nanna. il matrimonio tra una divinità femminile e una divinità maschile, il viaggio e il ritorno dal regno sotterraneo dei defunti. Ma qui l'unione sessuale è un intreccio secondario rispetto alla morte e alla risurrezione. E comunque l'unione sessuale da cui prende avvio l'intreccio è violenta, con una divinità maschile che rapisce Persefone e la costringe con l'inganno a tornare ogni anno. Un chiaro riflesso, questo, di un cambiamento fondamentale sopravvenuto nei rapporti tra donne e uomini. Un ulteriore riflesso dei fondamentali cambiamenti culturali è quanto accade in versioni ancora più tarde del mito di Eleusi, perché ora l'accento passa dal tema della madre e della figlia al tema della madre e del figlio. In queste versioni compare un altro figlio sacro, di volta in volta chiamato Plutone, Iacco, Trittolemo, Brimo, Dioniso. Ed è questa divinità maschile che alla fine diventa il personaggio principale al posto della figlia di Demetra e che nei misteri dionisiaci e nei più tardi misteri orfici deve andare nella terra dei morti prima della rinascita spirituale sua e dell'iniziato. Come scrive Kurz, nel periodo del controllo attivo sul santuario, deliberatamente si tentò di ridurre il simbolismo della madre terra presente nel culto, in armonia con il modello di sfemminizzazione dei miti. Fu introdotto un nuovo oggetto maschio di culto, il giovinetto Iacco, chiamato poi Trittolemo. Nella nuova versione del mito eleusino, Demetra dona il segreto dell'agricoltura a Iacco, Trittolemo, il quale, come Prometeo, lo svela agli uomini e diventa quindi una figura maschile della fertilità. Ovvero, come scrive Keller, Dioniso, giovane dio maschio della vita, del vino, dell'ebbrezza, dell'orgia, del delirio e della distruzione, come pure della resurrezione, si aggiunse abbastanza tardi ai riti di Demetra, probabilmente non prima del IV secolo a.C. Come vedremo, il culto di Dioniso era incentrato sulla violenza orgiastica. Anche i misteri eleusini prevedevano l'uccisione rituale di un maiale, dunque un sacrificio cruento, sebbene per alcuni studiosi esso si aggiunga ai riti in un momento successivo. E ancora maiali sono sacrificati in un'altra festa ateniese, le tesmoforie, quando alle matrone rispettabili di Atene, le schiave non potevano infatti partecipare, veniva temporaneamente permesso di liberarsi delle rigide costrizioni che condizionavano la loro esistenza e, come scrive Kurz, giocavano a essere libere. Ma, a differenza di quanto accade nei misteri dell'Eleusi, in cui le donne sono ancora associate ai poteri sessuali creativi della dea, nel mito di Dioniso persino l'atto del parto, della creazione, è tramutato in un gesto di distruzione violenta. In una versione della nascita di Dioniso, o Zagreo, altro nome di Dioniso, ci viene detto che quando Zeus propone di farlo sovrano dell'universo, i titani, gli dei più antichi, si adirano tanto da sbranare e divorare il giovanetto. La dea Atena salva il cuore di Zagreo e lo offre a Zeus, che lo trangugia, e rigenera poi un secondo Dioniso Zagreo. Poi Zeus distrugge con il fulmine i titani e proprio dalle loro ceneri nasce la razza umana, in parte divina, Dioniso, e in parte malvagia, Titani. Questo aspetto dualistico della natura dell'uomo, insieme dionisiaca e titanica, è di grande rilevanza anche nei misteri orfici, che si presentarono come versioni rivedute o meno corrotte dei riti dionisiaci. Gli orfici affermano che grazie alla sua origine divina, dionisiaca, l'anima poteva essere liberata dalla malvagia eredità titanica mediante l'iniziazione ai misteri orfici, e prefiguravano dunque in modo impressionante il successivo dualismo cristiano, nonché la morte violenta di un dio maschio e la sua resurrezione come temi mitici fondamentali. Nel mito dionisiaco è la violenza del fulmine invece dell'estasi sessuale a generare simbolicamente la vita umana. Similmente nel mito orfico è la testa decapitata del dio morto a simboleggiare il principio creativo, in quanto galleggia e ancora innalza il suo canto, anche dopo che il corpo è stato smembrato e gettato in mare. Dunque, come nell'Enuma Elish mesopotamico, in cui la vita si genera dal corpo smembrato della dea Tiamat, in questi miti greci gli uomini e la violenza hanno usurpato quanto in realtà appartiene alle donne e all'amore, la capacità di dare la vita. Ma il punto non è solo che nei misteri dionisiaci, nei misteri orfici, non celebrano più il potere sessuale femminile generatore della dea. Il punto è che addirittura il fondamentale ruolo femminile in questi misteri è ora quello della distruttrice piuttosto che della creatrice. Secondo la leggenda orfica, sono delle donne a fare a pezzi il corpo di Orfeo e come tuttora possiamo vedere nelle pitture vascolari greche, sono le menadi, in altri dipinti raffigurate e intente ai giochi sessuali con i satiri, a smembrare il corpo di Dioniso. Nella pratica rituale si smembrava non un uomo ma un capro, e osservando le figure vascolari, Kurz ipotizza che talvolta si trattasse non di animali vivi ma di simulacri. In ogni caso, sono le menadi, cioè le donne indemoniate, a dilaniare il dio che muore e risorge, rafforzando così nei greci la convinzione che le donne sono creature per loro natura distruttive e pericolose, che vanno severamente controllate o domate dagli uomini, altrimenti faranno loro ciò che nei miti fanno al dio. Sesso, Eros e Thanatos. Questi miti sono ovviamente i prodotti di una psiche che ha subito un cambiamento radicale, una psiche adatta a un mondo radicalmente cambiato. È un mondo in cui dell'atto di procreare si sono appropriati dei e sacerdoti maschi, in cui la nascita vera e propria, l'essere di carne partoriti dalla femmina, viene sminuita e perfino negata, in cui non si affermano né la vita né la donna, meno che mai considerate sacre. È un mondo in cui gli dei devono morire, i re devono morire e i figli devono eternamente uccidere i padri, come nel mito di Edipo, che Freud ha preso a fondamento della sua teoria del complesso edipico, per ottenere il possesso delle donne del potere, che ora si associa alla violenza. In breve, è un mondo in cui è primario il principio distruttivo, che Freud chiamò Thanatos, l'antica personificazione greca della morte. Infatti, ora i padri hanno il diritto e il potere di sacrificare ritualmente i figli, come nel caso di Agamennone che sacrifica Ifigenia o di Abramo che è pronto a sacrificare Isacco. Ora le donne sono diventate di un ordine inferiore, come Pandora, la prima donna secondo un mito esiodeo, al pari di Eva, considerata all'origine di tutti i mali dell'umanità. E l'Eros, pure guastato dalla violenza, deve, come le donne, essere controllato dagli uomini. Le successive teorie freudiane sottolineano la necessità di controllare il pericoloso es e la pericolosa libido. Ma persino in questo mondo del dominante, l'antico e intenso desiderio di rapporti, di un'unione armoniosa tra donna e uomo, di un senso dell'universo ciclico ordinato invece che caotico e violento, in breve di Eros invece che di Thanatos, continua a lottare per riaffermarsi sia nel mito sia nella realtà. Così nel mito dionisiaco riformato, ovvero il mito di Orfeo, troviamo tracce della precedente visione del mondo in una concezione della virilità e dei rapporti femmina-maschio che riafferma Eros a scapito di Thanatos. In taluni miti greci, Orfeo compare tra gli argonauti, i semidei greci, che come Teseo ed Ercole lottano contro i titani, demoniaci rappresentanti dell'antico ordine, alla fine sostituiti dai nuovi dei olimpici. Tuttavia, Orfeo non è un guerriero killer, seduttore e stupratore. È invece un poeta e un musico, le cui canzoni erano tanto soavi che le bestie feroci lo seguivano, gli alberi si piegavano verso di lui e i fiumi se ne stavano tranquilli. E come apprendiamo leggendo Ovidio e Virgilio, in netto contrasto con il tipico eroe forte e violento, è un uomo sensibile che ama profondamente una donna. Ama tanto profondamente sua moglie Euridice che quando lei muore mentre tenta di sfuggire ad Aristeo, Orfeo la segue agli inferi. Il mito di Orfeo ed Euridice non rientrava nei miti dionisiaci o orfici, in cui l'unione del principio femminile e del principio maschile non avevano più una parte fondamentale, sebbene, secondo alcune leggende, Dioniso salvi Arianna dal suo solitario dolore dopo l'abbandono di Teseo e la sposi. Ma è questo il mito che con maggiore forza catturò l'immaginazione degli artisti, ispirando persino le prime opere liriche del XVII secolo. E come osserva lo psicologo sociale David Loy, è stato proprio il tema dell'unione indissolubile di Orfeo ed Euridice a determinare la polarità del mito attraverso i secoli. Loy afferma che il desiderio di Orfeo di riunirsi a Euridice simboleggia il desiderio dell'uomo di riunirsi alla donna, in una società in cui il legame amoroso tra uomo e donna è considerato una minaccia al predominio maschile sulla donna. Osserva inoltre che in quanto artista e quindi uomo in contatto con la parte di sé più creativa o femminile, Orfeo rappresenta il desiderio degli uomini di accedere al loro io più umanistico o effeminato e creativo. In breve, afferma che l'archetipo orfico rappresenta fondamentalmente il desiderio degli uomini di sfuggire a una cultura che li imprigiona in uno stereotipo di mascolinità assimilata al predominio e alla violenza. Questo intenso desiderio, proprio agli uomini come alle donne, di una mascolinità non identificata con la conquista e il predominio, probabilmente spiega in parte anche l'enorme polarità di cui tuttora gode un altro mito religioso che tratta di un maschio sensibile e premuroso, la storia della morte e della resurrezione di Gesù Cristo. Un aspetto affascinante di questo mito è che, sebbene l'accento cada già sulla morte sacrificale e la resurrezione di un giovane Dio, temi importanti sono anche la nascita e il concepimento di Gesù. Però, in una strana parodia dell'antico matrimonio sacro, in cui la Dea aveva una parte tanto attiva e creativa, la madre di Gesù non è altro che un contenitore assolutamente passivo. In conformità con l'usurpazione da parte del maschio della tradizionale connessione, chiaramente osservabile, della nascita con il sesso e la donna, qui il bambino divino è generato esclusivamente dal padre, in assenza di alcunché di simile a un rapporto sessuale e ancora meno al piacere sessuale. E se la madre viene comunemente chiamata madre di Dio, a differenza di Gesù e del suo potente padre, non è più divina. Per la verità, questo mito cristiano è anche frutto di un certo numero di alterazioni. Iniziò con racconti a proposito di un giovane ebreo capace di compiere miracoli. Poi si collegò all'antica profezia ebraica della venuta di un Messia. E solamente con Paolo, l'ebreo di cultura ellenistica che con la sua attività apostolica diffuse il cristianesimo, nel quadro entrò anche il concetto che Dio aveva inviato il suo unico figlio a morire per i peccati degli uomini. In armonia con i pregiudizi del suo tempo, Paolo non si occupò granché della madre di Gesù. In effetti, soltanto parecchi decenni dopo, Paolo, quella parte dell'antico mito sulla nascita di un fanciullo divino da una vergine santa, rientrò in questa storia religiosa. Ma fu indubbiamente un elemento importante che ne determinò la costante e continua popolarità, come evidente nei paesi cattolici, in cui i credenti si rivolgono innanzitutto alla Vergine Maria. Ma a dispetto della presa tenace di queste tracce del culto della Dea, in Occidente l'accento continuò sempre più a spostarsi da Eros a Thanatos. Se un tempo il tema centrale del mito e della vita era l'unità ciclica di nascita, sesso, morte, rigenerazione, le prime parti del ciclo, sesso e nascita, persero sempre più importanza. E siccome elementi del modello della dominanza e di quello della partnership si andavano costantemente ricombinando in un miscuglio sempre più inquietante, la morte e la resurrezione di divinità maschili si spostarono con sicurezza sempre maggiore verso il centro della scena. Permanevano memorie del matrimonio sacro della Dea e di miti e riti sul sesso e la procreazione. Ma col tempo, a mano che queste memorie sempre più si offuscavano e sbiadivano in storie incentrate sul maschio, il matrimonio sacro venne trasformato in modo ancora più radicale. Alla fine, come vedremo nel prossimo capitolo, cominceremo a trovare miti di un'unione sacra non più tra donna e uomo, ma tra l'uomo e Dio. Un matrimonio sacro in cui la parte femminile è completamente e sorprendentemente scomparsa. Capitolo 8. Le ultime tracce del matrimonio sacro. Misticismo, masochismo e l'umano bisogno d'amore. Per parecchi anni, nonostante la mia inclinazione al pragmatismo e la mia formazione empirica, per ragioni che allora non intuivo, forse proprio a causa di quella inclinazione e di quella formazione, ho subito il fascino degli scritti mistici. Come tanti, vi percepivo un'antica saggezza perduta, rimasta sepolta sotto il linguaggio arcano, le dichiarazioni astratte, i simboli oscuri. Solamente ora, dopo anni, dedico allo studio delle testimonianze archeologiche e degli antichi miti di vari paesi e con la chiara visione della transizione culturale da un modello tendente alla partnership a quello della dominanza avvenuta nella preistoria. Comincio a comprendere tutta la verità di quella intuizione. Come il simbolismo del matrimonio sacro sopravvisse nelle tradizioni mistiche orientali e occidentali e come nell'arco di parecchi millenni forma e significato ne furono alterati in modo impressionante. È una storia che probabilmente non riusciremo mai a ricostruire nella sua completezza. Ma a parer mio, questo simbolismo sopravvive anche grazie agli sforzi deliberati delle donne e degli uomini, che in segreto si aggrapparono ai loro antichi miti e riti religiosi. Per la verità, mi sono andata sempre più convincendo che un motivo fondamentale per cui gli scritti mistici sono così ricchi di simboli, apparentemente incomprensibili, non è soltanto perché parlano, come talvolta si dice, alla parte intuitiva piuttosto che a quella razionale della mente. Sono convinta che molte tradizioni mistiche siano state deliberatamente avvolte nel mistero dai fondatori al fine di nascondere e quindi conservare i miti e i rituali un tempo associati alle religioni preistoriche. Come abbiamo visto, l'affermarsi del modello della dominanza comportò un'ampia revisione dei miti e una grande violenza fisica. Indubbiamente, le persecuzioni che pagani e infedeli ebbero a patire da ebrei e cristiani non erano niente di nuovo, ma la semplice continuazione di tradizioni di persecuzione religiosa sia ben stabilite nella preistoria che all'inizio dell'epoca storica. Pertanto, l'unico modo per preservare le antiche tradizioni religiose in un mondo di violenza cronica e di persecuzioni religiose doveva essere simile al metodo poi adottato dagli eretici: rifugiarsi nei sotterranei e continuare le antiche pratiche in culti misterici, dai codici segreti, rivelati solamente agli iniziati, quali, come nel caso dei Misteri Eleusini, facevano solenne giuramento di non rivelare mai il significato dei simboli e dei riti di cui erano venuti a conoscenza. Ma col passare dei secoli e poi dei millenni, gli antichi significati lentamente mutarono e caddero nell'oblio, per il naturale processo di cambiamento proprio delle tradizioni orali, e perché le donne e gli uomini che in origine possedevano le chiavi dei codici segreti erano morti da tempo. Si aggiunga il continuo sovrapporsi di elementi della dominanza e le costanti reinterpretazioni, ed ecco che tutto divenne sempre più misterioso, di cui il termine misticismo, dal greco mystikos, concernente i misteri. Eppure, ancora ai giorni nostri, l'arcaica fusione di sessuale e spirituale è evidente nelle tradizioni mistiche dell'Occidente e dell'Oriente. È una delle ragioni per cui tanti partecipanti ai movimenti spirituali della New Age guardano al misticismo per trovare indizi di una spiritualità e di una sessualità più soddisfacenti. Molti di loro sono particolarmente attratti dalle tradizioni mistiche orientali, poiché spesso conservano meglio questa visione, risalente alla preistoria, secondo cui un'equilibrata unione del femminile e del maschile è il fondamento essenziale per raggiungere equilibrio e armonia in tutti gli aspetti del nostro mondo. Ma gli scritti mistici, sia orientali sia occidentali, sono un miscuglio di elementi della partnership e della dominanza. Pertanto, proprio perché tanto grande è l'interesse per delle alternative a religioni che considerano il nostro corpo, e in particolare la nostra sessualità, come vili e malvagi, è importante cercare di sbrogliare i vari fili di questi punti di vista, del tutto contraddittori. Questo mentre continua il nostro viaggio dalla preistoria al Medioevo in Occidente, fino alla soglia dell'età moderna. Sarà l'argomento di quest'ultimo capitolo della parte prima.